Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini incrociati racconta una staffetta, il passaggio di un testimone. Racconta la storia di due campioni i cui destini saranno legati e intrecciati dalla sorte. Due fuoriclasse dello sport che si avvicenderanno al vertice di uno dei più straordinari spettacoli agonistici del mondo, sullo sfondo di un'epoca controversa e problematica della storia americana. Prima di scoprire chi sono i nostri personaggi, tuffiamoci a esplorare il magico mondo dei giganti dell'NBA. NBA sta per National Basketball Association. È la più grande lega professionistica del basket americano. Riunisce le principali squadre degli States e del Canada. Il livello però è così alto che è come se si trattasse di un campionato del mondo. Infatti qui si trovano i giocatori più forti del pianeta, fenomeni che vengono da ogni parte del mondo per offrire uno spettacolo incredibile. Lo sport è sempre un efficace termometro sociale in ogni luogo del mondo. Analizzare le sorti e le direzioni del più popolare sport di un paese significa spesso capire cosa sta succedendo sul piano sociale in quello stesso paese. Negli States ciò è particolarmente vero, tanto stretto è il legame fra la società e i tre sport principali, il basket, il baseball e il football. Così l'NBA è una curiosa lente di ingrandimento per esaminare la storia americana. La National Basketball Association nasce nel 1946 con il nome di Basketball Association of America. Assumerà il nome definitivo 3 anni dopo. Fino a quel momento non esisteva una sola lega nazionale di basket negli Stati Uniti, ce n'erano diverse. E già questo è specchio della tendenza tutta americana a limitare tutto ciò che può sembrare in qualche modo etero diretto. Quando anche gli americani si vedono costretti ad affrontare il duro periodo del dopoguerra, l'iniziativa di qualche privato, proprietario delle più grandi arene sportive del paese, porta alla nascita di una lega che possa riunire le città popolose del Nord America per creare uno spettacolo di svago e distrazione in grado di rasserenare milioni di americani. Per gli States sono gli anni della dottrina Truman e del piano Marshall, con il quale gli americani si accollano le spese di ricostruzione di mezza Europa e delimitano la propria area di influenza sul vecchio continente, spartendoselo con i russi. Il segretario di Stato George Marshall annuncia così al mondo i dettagli del suo piano il 12 luglio 1947 a Parigi. Perché gli Stati Uniti si dovrebbero accollare il peso delle spese di ricostruzione dell'Europa? La risposta è semplice. Gli Stati Uniti sono l'unico paese al mondo oggi che ha la forza economica e la capacità produttiva per fronteggiare le necessità di un periodo così duro. Così per gli americani si preannuncia un periodo di sacrifici. Niente in confronto a ciò che hanno passato dopo il 1929. In ogni caso, però, le manifestazioni della sottocultura devono supportare il momento difficile e forgiare lo spirito della ricostruzione. Il cinema, lo spettacolo e lo sport devono fornire momenti di leggerezza e di spensieratezza. Così al cinema nasce la seconda generazione delle grandi commedie americane e negli sport si consolidano le leghe nazionali. Il 1 novembre 1946 si gioca la prima partita dell'NBA, New York contro Toronto. The game has changed through the years, but the Knickerbockers are still from New York, just as they were 5 decades ago when they played in the very first NBA game. L'organizzazione delle squadre della NBA è piuttosto complessa e riflette anche in questo caso lo spirito d'impresa degli Stati Uniti. Non esistono promozioni e retrocessioni, è un concetto del tutto assente dalla cultura sportiva americana. Esistono le franchigie, così sono chiamate le squadre, che non sono legate indissolubilmente a una città. Sono un'impresa economica che per vari motivi a un certo punto può decidere di cambiare la città che rappresenta, portandosi dietro nome, maglia, stemma, colori sociali, giocatori e tecnici. Un po' come se da noi la Juventus, seccata dalle contestazioni dei tifosi torinesi, si spostasse a Verona e iniziasse a rappresentare un'altra città, decisamente distante dalla nostra logica. Fatto sta che l'NBA continua a crescere, a rispecchiare la società americana e in qualche modo a contribuire al cambiamento. Negli anni 50 questo stretto rapporto con i mutamenti sociali risulta particolarmente evidente. Uno dei problemi più grandi che gli americani devono affrontare nel dopoguerra è ancora quello razziale. La situazione interna dei neri afroamericani è tutt'altro che pacificata, ma anche il processo di accettazione delle altre razze è tutt'altro che compiuto, tanto più che la Seconda Guerra Mondiale ha acuito il problema, aumentando di fatto il numero di immigrati di varie nazionalità che sono approdati in territorio americano. Nel 1949 la NBA dà un segnale forte dei tempi che stanno cambiando. I New York Knickerbockers scelgono al draft, l'equivalente del nostro calciomercato per intenderci, un giocatore giapponese, Wataru Misaka. In un colpo solo, lo sport supera il razzismo e il sentimento di vendetta che negli americani ancora covava dopo Pearl Harbor. Lo stesso Misaka ricorda così quegli anni. Ero negli Stati Uniti dal 1944, quando andai a studiare nello Utah. Devo dire che non fu semplice all'inizio. Ero giapponese. E per gli americani ero un nemico. Il basket però mi aiutò. In Giappone ero uno dei migliori giovani giocatori a livello nazionale. In America cominciai a giocare per la squadra universitaria. Negli Stati Uniti lo sport a livello universitario è molto sentito. Così quando ho iniziato a giocare e a vincere con la squadra, quelle stesse persone che fuori dal campo mi additavano come il nemico, tifavano per me. In questo modo è iniziato il mio processo di integrazione. Allo stesso modo, negli anni 50, iniziano a entrare nelle varie squadre dell'NBA gli afroamericani. I primi a rompere l'egemonia bianca sono Chuck Cooper, Nat Clifton, Earl Lloyd. Impressionante e straordinario pensare che oggi l'80% dei giocatori della NBA è formato da uomini di colore. Anche in questo caso, mentre fuori dai palazzetti prendono corpo le lotte di Martin Luther King, Malcolm X e gli altri attivisti, attorno alla pala da basket si coagulano ancora più rapidamente i mutamenti delle più profonde strutture sociali degli States. Mentre l'NBA diventa sempre più un miscuglio di razze e colori, mentre vengono introdotte nuove regole che trasformano il gioco e lo rendono più frenetico e avvincente, come la regola dei 24 secondi, tempo massimo entro cui una squadra deve arrivare al tiro, si affaccia al professionismo il primo dei nostri due personaggi di oggi. Un giocatore straordinario, dalla vita e dalla personalità affascinanti. Uno di quei cestisti afroamericani destinati a fare la storia di questo sport per oltre un ventennio. Il suo nome è Lewis Alcindor, ma forse la maggior parte di voi lo conosce con il nome di Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar. Lewis Alcindor nasce a New York il 16 aprile del 1947. La sua è una famiglia normale, cattolica, che lavora sodo per sbarcare il lunario e per assicurargli un'infanzia e un'educazione serene e di ottimo livello. Mio padre era un poliziotto di giorno, ma la sera faceva il musicista jazz. Ha suonato con i grandi del jazz, da Gillespie a Count Basie, ed era nell'orchestra al Madison Square Garden quando Marilyn Monroe cantò per il presidente Kennedy. Già, suo padre è un jazzista ed è anche uno dei musicisti che assiste al disperato canto d'amore e di dolore di Marilyn a JFK. Quella sera Lewis aspetta suo padre sveglio. Quando il genitore è in casa, padre e figlio si parlano e dalla bocca e dagli occhi di papà Alcindor esce il racconto trasognato ed emozionato di un evento straordinario, irripetibile e denso di emozione. Lewis, quando diventerà il grande Kareem Abdul-Jabbar, terrà ben presente la lezione di sensibilità di quel padre così attento ed emotivo. E non è l'unico elemento che egli eredita dal genitore. Penso che la musica e lo sport, la musica e il basket in particolare, abbiano diversi elementi in comune. Il ritmo, la grazia, la capacità di improvvisare, lo stretto legame con il jazz che ho maturato grazie a mio padre mi hanno indubbiamente aiutato. E poi, non so, il suo amore per Kennedy, l'attenzione che aveva per i più deboli e per i problemi legati ai diritti umani, mi hanno permesso di crescere come persona. Lewis cresce presto anche dal punto di vista fisico. Cresce in modo spropositato. Ha possibilità fisiche e atletiche impressionanti, superiori a quelle di qualsiasi coetaneo. A 13 anni sfiora già i 2 metri. una struttura fisica del genere, è naturale che Lewis si dedichi al basket. Fa tutta la trafila. Parte dalle squadre del liceo e arriva naturalmente al prestigioso campionato universitario. Qui esplode. Trova per prima cosa la forza di crescere in maniera straordinaria dal punto di vista tecnico. Anche questa è in qualche modo una lezione di mio padre, una lezione del jazz. Da solo il talento non basta, così come non è sufficiente la tecnica, vanno fuse e integrate. Io ero talentuoso e fisicamente esplosivo, ma in quegli anni lavorai duro sulla tecnica e sui fondamentali e diventai un discreto giocatore. In realtà diventa da subito un giocatore straordinario, uno di quei giocatori che sa far bene tutto e in ogni zona del campo. È alto 2 metri e 18 centimetri, inevitabile che finisca a giocare come centro, detto anche pivot. Il centro è generalmente il giocatore più alto della squadra, il più massiccio dal punto di vista fisico. Deve saper sfruttare la sua fisicità nei pressi del canestro. Deve saper segnare, difendere, stoppare i tiri degli avversari. Lewis sa fare tutto questo. Ma come i più grandi, si specializza in un colpo magico, che nessuno al mondo sa fare come lui e saprà mai fare come lui. Si chiama Skyhook, gancio cielo, ed è un capolavoro. Ford sends it to Kareem. Skyhook up and good! Lakers win! Kareem Abdul-Jabbar! Cos'è il gancio cielo? Per chi non sa nulla di basket ma ama il calcio, potremmo descriverlo come un incrocio tra un no-look alla Ronaldinho e una punizione morbida alla Roberto Baggio. Karim è spalle al canestro e guarda altrove. Poi improvvisamente si alza da terra, arriva in cielo, si gira in aria, alza il braccio in tutta la sua estensione, con il pallone nel palmo della mano. E tra i 2 metri e 18 centimetri, il salto e la lunghezza dell'arto, la palla arriva a quasi 4 metri. Da lì, in una frazione di secondo, in piena torsione, con eleganza e armonia, la palla inizia la sua delicata traiettoria verso il canestro. Uno spettacolo. Oscar Robertson throws to Kareem. 7 seconds. Inoltre, alla fine degli anni 60, quando Lewis sbalordisce ai campionati universitari di basket, arrivano anche la serenità e la compostezza interiore della conversione religiosa. Come diversi altri atleti americani, il grande Cassius Clay in primis, Lewis Alcindor trova la propria spiritualità nell'Islam. Con la conversione arriva il nuovo nome, quello che lo renderà immortale, Kareem Abdul-Jabbar. L'ingresso in NBA di Kareem Abdul-Jabbar avviene nel 1970. A prelevarlo dal campionato universitario è il team dei Milwaukee Bucks. Qui Jabbar rimarrà 5 anni. 5 anni in cui porta la sua squadra per la prima volta al titolo, nel 1971. Intanto si consolida la sua fama di uno dei migliori giocatori del campionato. Così ricordano i suoi esordi e il suo gancio cielo avversari e addetti ai lavori come Bill Cartwright, centro dei New York Knicks. Beh, non arriverai a definire il suo gancio cielo come inarrestabile, ma quasi. O il giornalista sportivo Hubby Brown. Quando iniziava la torsione e cominciava ad alzarsi sul suo piede sinistro, si poteva indifferentemente girare da un lato o dall'altro. Spalle al canestro, rapidamente si voltava e tirava, e per quanto tu potessi difendere bene, eri semplicemente spacciato. La definitiva consacrazione di Jabbar arriva dal 1974, quando passa ai Los Angeles Lakers, una delle squadre più famose del mondo. Qui, a causa di una lesione alla cornea rimediata in allenamento, Kareem inizia a giocare con i caratteristici occhialini che l'hanno reso famoso. Una testa di capelli ricci che fa molto Harlem anche a lunga distanza, gli occhialini beige, la maglia gialla dei Lakers, le lotte per i diritti dei musulmani e degli afroamericani, i canestri a ripetizione che portano Los Angeles sul tetto del mondo. Jabbar segna l'immaginario collettivo e diventa un'icona. Un'icona che trova addirittura posto nell'East Side Gallery del Muro di Berlino. Dal 1974 al 1979 Jabbar infila una serie di stagioni incredibili e viene votato costantemente miglior giocatore del campionato. Il titolo però continua a sfuggire. Eravamo un'ottima squadra, forse la più forte, ma ci mancava qualcosa nei playoff, nei confronti diretti. Qualcosa che è arrivato nel 1980. Sì, nel 1980 i Lakers arricchiscono il proprio organico con un giovane giocatore. Un giovane che per la verità arriva un anno prima, nel 1979, ma non brilla e non entra subito tra i titolari. Lo farà nel 1980, ma solo nel finale di stagione, quando il destino incrocia la sua sorte e quella di Kareem Abdul-Jabbar. Nel 1980, infatti, i Los Angeles Lakers raggiungono la finale contro i Philadelphia 76ers. Si gioca al meglio delle 7 partite. Dopo 5 gare, i losangelini conducono 3-2. La sesta gara si gioca in trasferta e tutte le speranze sono sulle spalle di Jabbar, che prima del match però si fa male. Ho preso una botta in allenamento. Il destino mi ha tirato uno scherzo proprio ad un passo dall'obiettivo che stavo inseguendo da 5 anni, ma col senno di poi è stato un regalo insperato. Los Angeles piomba nel panico. Il match è decisivo senza il suo campione. Al suo posto viene schierato proprio quel giovane di cui vi abbiamo parlato prima. Il suo nome è Irving Johnson, ma per tutti sarà Magic Johnson. Magic Johnson. Trascina i Lakers alla vittoria e come Karim, di cui ha preso il posto quella sera, diventerà ben più di un semplice giocatore di basket. Tra poco, a Destini Incrociati. My best friend gave me the best advice. He said each day's a gift and not a given right. Leave no stone unturned, leave your fears behind. And try to take the path less traveled by. Destini Incrociati. Oggi Destini Incrociati si muove sul parquet dei campi di basket tra i giganti dell'NBA. I nostri protagonisti sono due dei più grandi giocatori di sempre, Karim Abdul-Jabbar, di cui abbiamo raccontato la storia, e Magic Johnson. I loro destini si incrociano il 16 maggio 1980. I Lakers, la squadra in cui giocano entrambi, tenta di raggiungere quel titolo che Jabbar, nonostante performance incredibili nelle 5 stagioni precedenti, ha solo sfiorato. È lui il re di Los Angeles, ma si fa male. Così Paul Westhead, allenatore dei Lakers, decide di far giocare nel suo ruolo il giovane Johnson, appena arrivato quell'anno dal campionato universitario. La performance di Johnson è impressionante, come ricorda lo stesso allenatore. Segnò 42 punti con 15 rimbalzi e 7 assist. Una cosa incredibile. Vincemmo 123-107. A causa di altri infortuni cambiò ruolo 3 volte durante il match, ma sembrava indemoniato, sembrava di un'altra categoria rispetto a tutti gli altri. Impressionante. I Lakers si laureano campioni e trovano un nuovo idolo. Jabbar, dall'anno successivo, dovrà dividere la scena con lui, ma non sarà un problema. Noi però andiamo a scoprire di più sul grande Magic Johnson. Irving Johnson Jr. nasce a Lansing, nel Michigan, il 14 agosto 1959. Suo padre è un operaio in una grossa fabbrica di automobili. Sua madre è custode di una scuola. Una famiglia di origini umili, di uno dei tanti ghetti delle cittadine del Michigan. Anche qui gli afroamericani lottano per la parità dei diritti. Irving si appassiona subito al basket, che inizia a praticare fin da giovanissimo nei tanti playground vicini a casa, i campetti in cemento che costituiscono un elemento ricorrente dei paesaggi americani. Diventa subito così bravo che la squadra del suo liceo ne fa un pilastro. A soli 15 anni attira l'attenzione di un giornale locale, il Lansing Sports Journal, che gli dedica un articolo e senza saperlo lo segna per sempre. Irving Johnson ha segnato nell'ultima partita 36 punti, 18 rimbalzi e fatto 16 assist. È stato fantastico, magico. Semplicemente Magic Johnson. Così nasce il suo soprannome, che si porterà dietro per tutta la vita e che all'inizio non piace a mamma Christine, così religiosa che lo trova quasi sacrilego. Se non sacrilega, quantomeno irriverente, è la facilità con cui Magic umilia gli avversari a livello giovanile. Quando approda all'università, a Michigan State, dimostra subito una classe e una tecnica superiore a quella di tutti i coetanei, adattandosi perfettamente a tutti i ruoli. Ancora più irrisorio il fatto che Magic inizialmente non desideri diventare un giocatore professionista. No, inizialmente volevo completare gli studi e diventare giornalista. Possibilmente giornalista sportivo o commentatore. È stato il basket che mi ha chiamato a sé e non ho saputo resistere. Che Magic sarebbe diventato il numero uno si capisce il 20 giugno 1979. Quella sera Michigan sconfigge Indiana nella più seguita partita di basket universitario di tutti i tempi. Magic annienta il suo rivale dell'intera stagione, Larry Bird. Bird è bianco e biondo, anche lui viene dalle classi popolari. Si scontrano due culture, due anime dell'America, nei volti di questi giovani che saranno rivali e amici per tutta la vita. Pochi mesi dopo passa a Los Angeles, è il 1979. Un anno dopo l'America sposa il reaganismo, l'anno in cui tutto il mondo entra in uno dei decenni più controversi. Magic, come vedremo, ne sarà il simbolo, nel bene e nel male. Visto nel 1980-81, Johnson alla seconda stagione ai Lakers porta la sua nuova squadra in cima al mondo. Gioca la finale grazie alla defezione di Jabbar. Dall'anno dopo i due sono in campo insieme e per gli avversari sono dolori. Eravamo complementari. Kareem era alto, elegante, maestoso. Io potente ed esplosivo. In campo eravamo una grande coppia. La nostra era una squadra fenomenale. In effetti, i Lakers negli anni 80 diventano una vera e propria icona, la squadra di basket più famosa al mondo. In un decennio che si nutre di simboli pop, Magic e Kareem Abdul-Jabbar sono nella mitologia collettiva accanto a Michael Jackson, Tom Cruise, i presidenti Reagan e Gorbachev, i sintetizzatori, il Walkman, le VHS, gli Yuppie. Il bis del titolo arriva nel 1982. Dal 1983 inizia una rivalità fortissima contro i Boston Celtics, guidati da un vecchio rivale di Magic Johnson, quel Larry Bird sconfitto ai tempi dell'università. Si rinnova la battaglia culturale tra i due campioni così diversi tra loro. Per ben tre volte le due squadre si affrontano in finale, nel 1984, nel 1987 e nel 1988. Per due volte la spuntano i Lakers di Jabbar e Magic Johnson, una volta i Celtics di Larry Bird. Lo scontro tra Boston e Los Angeles diventa un altro dei simboli degli anni Ottanta. Sì, penso che sia stato uno dei grandi momenti della cultura popolare degli anni Ottanta. Due squadre, due città diversissime tra loro, due visioni del mondo e dell'America. Boston così europea, Los Angeles una delle città più americane. E poi lo scontro tra me e Bird. È stato un grande periodo. Gli anni Ottanta, come detto, sono un periodo di luci sfavillanti e di ombre cupe e raggelanti. Il decennio più controverso della storia recente, infatti, viene ricordato anche per un altro triste elemento, l'HIV. Il virus dell'AIDS esplode proprio in questi anni, diventa la nuova peste e scatena una sorta di psicosi collettiva. Purtroppo attraverserà la strada di uno dei nostri protagonisti di oggi. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Destini incrociati. A Destini Incrociati abbiamo visto l'incontro tra le vite di Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson, due tra i più grandi giocatori di basket della storia. Nel 1980 l'infortunio del primo lancia l'altro. Poi negli anni 80 insieme fanno grandi i Los Angeles Lakers ed entrano di diritto tra i tanti miti pop di questo decennio. Un decennio controverso e folle. Il decennio dell'apice della guerra fredda e del disgelo, del reganismo e della disco music, di Michael Jackson e degli Yuppie. Il decennio, purtroppo, dell'AIDS. Il virus dell'HIV, la sindrome dell'immunodeficienza acquisita, ha una triste data di nascita, il 5 giugno 1981. Quel giorno l'ufficio della sanità di Los Angeles certifica 5 casi di polmonite cistica in altrettanti uomini gay. Il virus abbatte le difese immunitarie e apre la strada a malattie cruente di ogni genere. Inizialmente ignoranza e superficialità spingono ad associare la malattia all'omosessualità. Quando scoppia l'epidemia, metà della popolazione colpita è eterosessuale. Scoppia il panico collettivo. L'AIDS si diffonde attraverso la trasmissione sessuale, attraverso il sangue, oppure si eredita dalla propria madre quando infetta. Negli anni 80 milioni di persone ne vengono colpite e muoiono. Per alcuni sembra un flagello che va a colpire gli eccessi e i malcostumi. Per altri, i fedelissimi delle teorie complottistiche, è il frutto di un esperimento militare andato male. Fatto sta che nessuno sa spiegarne l'origine, ma la tragedia è purtroppo drammaticamente concreta e segna l'opinione pubblica. AIDS, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide. Nei paesi occidentali l'AIDS è un virus democratico. Colpisce tutti, non guarda in faccia a nessuno. Uomini ricchi e poveri, famosi e sconosciuti. Non fa distinzioni di razza, di religione o di orientamento sessuale. Così uno dei nostri protagonisti di oggi ne viene colpito. È Magic Johnson, che nel 1991, alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera, sciocca il mondo con la notizia. First of all, let me say good afternoon. Sono qui con voi oggi pomeriggio per confermare che ho contratto il virus HIV. Devo purtroppo abbandonare la mia squadra, i Los Angeles Lakers. Mia moglie e mia figlia stanno bene, non hanno il virus. Spero di vivere ancora a lungo, ragazzi. Sapete che sono un lottatore, un agonista, e non mollerò. Voglio diventare un faro per le persone che lottano contro questo male. La notizia rimbalza su tutti i giornali e i telegiornali. Avrebbe dovuto essere l'eroe delle Olimpiadi di Barcellona, il condottiero della nazionale americana di basket. E invece Magic Johnson, 32 anni, il più ricco e famoso giocatore di pallacanestro del mondo, ha scoperto di essere gravemente ammalato. È risultato sieropositivo al test dell'AIDS, il male che non perdona. Magic Johnson ha annunciato il suo dramma nella notte in una conferenza stampa al Forum di Los Angeles, il palazzetto che per 12 anni l'ha visto brillare con la maglia dei Lakers. Milioni di fan in tutto il mondo piombano nella disperazione. You're in the sea on a decline, breaking the way. I Lakers hanno perso nel giro di poco tempo i due assi. Jabbar si ritira infatti a quasi 40 anni, con un tour trionfale in cui riceve standing ovation in ogni palazzetto. Si dedica definitivamente ai diritti umani e al basket giovanile, diventando in tempi più recenti un grande sostenitore della campagna presidenziale di Barack Obama. Magic Johnson inizia il suo lungo e difficile match per la sopravvivenza. Diventa un simbolo di speranza per milioni di contagiati, un esempio di coraggio. Racconta come ha contratto il virus attraverso decine di rapporti sessuali quando era all'apice della carriera. Invito tutte le persone nel mondo nella mia condizione a non arrendersi e ad andare avanti. Avere l'HIV, essere sieropositivi, non significa ancora avere l'AIDS. Si può tenere sotto controllo, ci si può convivere. Per questo ho creato la mia fondazione, la Magic Johnson Foundation, per aiutare le persone a lottare. Magic lotta e duramente. Gioca comunque l'All-Star Game nel 1992 e lo fa magnificamente. Magic, mancano 18 secondi. Ci prova da tre. Non esiste questo! Magic Johnson, 10 secondi! Se non è il numero uno di questa partita, lui, la partita si ferma e tutti dicono tu sei di un'altra pianeta. E va alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992 con il Dream Team. Vince l'oro, ma non gioca spesso, causa problemi a un ginocchio. Magic non si rassegnerà al ritiro. Proverà due volte a tornare sul campo, ma non sarà più quello di un tempo. Nel 1996 si ritira definitivamente e dedica la sua vita alla lotta contro l'HIV e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Come altri campioni dello sport, Lance Armstrong su tutti, con la sua lotta contro il cancro, Magic è un esempio di forza interiore e di vitalità. Un monito per tutti coloro che vengono toccati dalla sfortuna a non lasciarsi andare e non farsi distruggere dalla malattia e dagli eventi.